Ad alta voce, Piero Baldini legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Don Apollinar Moscote, il correggitore, era arrivato a Macondo senza far fracasso. Era sceso nell'hotel di Jacob, aperto da uno dei primi arabi che erano arrivati per barattare gingilli con pappagalli, e il giorno dopo aveva affittato una stanzetta con porta su strada, a due isolati dalla casa dei Buendia. Vi mise una sedia e un tavolo che aveva comprato da Jacob, inchiodò al muro uno stemma della Repubblica che aveva portato con sé, e pitturò sulla porta l'insegna correggitore. La sua prima disposizione fu quella di ordinare che tutte le case venissero dipinte di azzurro per commemorare l'anniversario dell'indipendenza nazionale. José Arcadio Buendía, con la copia dell'ordinanza in mano, lo sorprese mentre faceva la siesta in una maca che aveva appeso nello squallido ufficio. «Ha scritto lei questo foglio?» gli chiese. Don Apollinar Moscote, un uomo maturo, timido, di complessione sanguigna, rispose di sì. «Con che diritto?» tornò a chiedere José Arcadio Buendía. Don Apollinar Moscote cercò una carta nel cassetto del tavolo e gliela mostrò. «Sono stato nominato correggitore di questo villaggio». José Arcadio Buendía non degnò nemmeno di un'occhiata l'atto di nomina. «In questo villaggio non comandiamo con le scartoffie», disse senza perdere la calma. «E perché lei lo sappia una volta per sempre, noi non abbiamo bisogno di nessun correggitore, perché qui non c'è niente da correggere». Di fronte alla imperturbabilità di Don Apollinar Moscote, sempre senza alzare la voce, fece un particolareggiato resoconto di come avevano fondato il paese, di come si erano divisi la terra, aperte le strade e introdotto le migliorie che a mano aveva richiesto loro il bisogno, senza aver dato fastidio ad alcun governo e senza che alcuno desse loro fastidio. «Siamo così pacifici che non siamo nemmeno morti di morte naturale», disse. «Vede bene che non abbiamo ancora il cimitero». Non si lamentò che il governo non l'avesse aiutati. Al contrario, si rallegrava che fino a quel momento li avesse lasciati crescere in pace e sperava che continuasse a lasciarli così. Non avevano fondato un villaggio perché il primo capitato venisse a insegnare quello che dovevano fare. Don Apollinar Moscote si era infilato una giacca di drill bianca come i suoi pantaloni, senza perdere mai la purezza dei suoi modi. «E così, se lei vuole rimanere qui come qualsiasi altro cittadino comune e corrente, che sia il benvenuto», concluse José Arcadio Buendía. «Ma se viene a istituire il disordine, obbligando la gente a pitturare la sua casa di azzurro, può prendere le sue carabattole e tornarsene da dove è venuto, perché la mia casa deve essere bianca come una colomba». Don Apollinar Moscote diventò pallido, fece un passo indietro e strinse le mascelle per dire con una certa pena: «Desidero avvertirla che sono armato». José Arcadio Buendía non seppe come gli tornò nelle mani la forza di quando era giovane e con la quale rovesciava un cavallo. Afferrò Don Apollinar Moscote per il bavero e se lo alzò all'altezza degli occhi. «Faccio questo», disse, «perché preferisco che lei mi sia peso da vivo anziché continui a pesarmi da morto per il resto della mia vita». Lo portò così in mezzo alla strada, sospeso per i baveri, e lo rimise sui suoi piedi solo quando fu sulla strada della palude. Una settimana dopo era di ritorno con 6 soldati scalzi e cenciosi, armati di schioppo, e con una carretta da buoi che trasportava sua moglie e le sue 7 figlie. Più tardi arrivarono altre 2 carrette coi mobili, i bauli e gli utensili domestici. Sistemò la famiglia nell'hotel di Jacob, mentre cercava una casa, e riaprì l'ufficio con la protezione dei soldati. I fondatori di Macondo, decisi a scacciare gli invasori, andarono con i loro figli maggiori a mettersi a disposizione di José Arcadio Buendía, ma lui si oppose. Spiegò perché don Apollinar Moscote era tornato con moglie e figlie e non era cosa da uomini svergognare la gente davanti alla loro famiglia. Perciò disse di regolare la situazione con le buone. Aureliano lo accompagnò. In quell'epoca aveva già cominciato a lasciarsi crescere un paio di baffetti neri con le punte impeciate e aveva la voce un po' stentorea che lo avrebbe caratterizzato in guerra. Disarmati, senza far caso alle guardie, entrarono nell'ufficio del correggitore. Don Apollinar Moscote non perse la calma. Presentò due delle sue figlie che si trovavano lì per caso. Amparo, di 16 anni, bruna come sua madre, e Remedios, di appena 9 anni, una bellissima bambina con pelle di giglio e occhi verdi. Erano graziose e ben educate. Non appena i due uomini entrarono, prima ancora di essere presentate, portarono sedie perché si sedessero, ma ambedue rimasero in piedi. «Benissimo, amico», disse José Arcadio Buendía. «Lei resta qui non perché si è portato dietro quei bandolieri da trombone, ma per rispetto della sua signora moglie e delle sue figlie». Don Apollinar Moscote si confuse, ma José Arcadio Buendía non gli lasciò tempo di ribattere. «Ma le imponiamo due condizioni», aggiunse. «La prima, che ciascuno pitturi la sua casa del colore che più gli piace. La seconda, che i soldati se ne vadano subito. Noi le garantiamo l'ordine». Il correggitore alzò la mano destra con tutte le dita tese. «Parola d'onore, parola di nemico», disse José Arcadio Buendía, e aggiunse con un tono amaro. «Perché una cosa le voglio dire, lei e io continuiamo a essere nemici». La casa nuova, bianca come una colomba, fu inaugurata con un ballo. Ursula aveva concepito quella idea fin dal pomeriggio in cui aveva visto Rebecca e Amaranta trasformate in adolescenti. E si può quasi dire che il principale motivo della costruzione fosse il desiderio di fornire alle ragazze un luogo degno dove potessero ricevere le visite. Desiderosa che nulla togliesse lustro a quel proposito, lavorò come un galeotto mentre si realizzavano le riforme, di modo che prima che fossero terminate aveva ordinato costosi accessori per la decorazione e il servizio. E l'invenzione meravigliosa che avrebbe suscitato lo stupore del villaggio e la gioia dei giovani, la pianola. La portarono smontata, imballata in parecchie casse che furono scaricate insieme ai mobili viennesi, alla cristalleria di Boemia, al vasellame della Compagnia delle Indie, alle tovaglie d'Olanda e a un ricco assortimento di lampade, bugie e vasi da fiori, ornamenti e arazzi. La casa importatrice mandò a sue spese un esperto italiano, Pietro Crespi, con l'incarico di montare e di accordare la pianola, di far imparare ai suoi compratori a manovrarla e di insegnare loro a ballare la musica di moda perforata su 6 rulli di carta. Pietro Crespi era giovane e biondo, l'uomo più bello, più educato che si era mai visto a Macondo, così scrupoloso nel vestire che nonostante il caldo soffocante lavorava col panciotto di broccato e la grossa giacca di panno scuro, inzuppato di sudore, badando sempre a mantenere una distanza riverente coi padroni di casa, rimase per parecchie settimane chiuso nel salotto, con una dedizione simile a quella di Aureliano nel suo laboratorio di oreficeria. Un mattino, senza aprire la porta, senza convocare alcun testimone del miracolo, fece funzionare il primo rullo nella pianola e il martellare assordante, lo strepito continuo dei listoni di legname cessarono in un silenzio di stupore, al cospetto dell'ordine e del nitore della musica. Tutti si precipitarono nel salotto. José Arcadio Buendía parve fulminato. non dalla bellezza della melodia, ma dal tasteggio autonomo della pianola, e collocò nel salotto la macchina fotografica di Melchiades con la speranza di ottenere il daguerrotipo dell'esecutore invisibile. Quel giorno l'italiano pranzò con loro. Rebecca e Amaranta, servendo a tavola, furono intimidite per la fluidità con la quale adoperava le posate quell'uomo angelico, dalle mani pallide e senza anelli. Nel soggiorno attivo al salotto delle visite, Pietro Crespi diede loro lezioni di ballo. Insegnava i passi senza toccarle, scandendo il ritmo con un metronomo, sotto la cortese sorveglianza di Ursula, che non lasciò il salotto nemmeno per un istante, mentre le sue figlie ricevevano le lezioni. E in quei giorni Pietro Crespi portava dei pantaloni speciali, molto flessibili e aderenti, e un paio di scarpini da ballo. «Non hai motivo di preoccuparti tanto», diceva José Arcadio Buendía a sua moglie. «Quell'uomo è un finocchio». Ma lei non tralasciò la sorveglianza finché non terminò il corso e l'italiano non se ne andò da Macondo. Allora cominciarono i preparativi per la festa. Ursula compose una lista severa degli invitati, nella quale furono compresi soltanto i discendenti dei fondatori, tranne la famiglia di Pilar Ternera, che aveva già avuto altri due figli da padri sconosciuti. Era in realtà una scelta di classe, ma determinata soltanto da sentimenti di amicizia, dato che i favoriti non solo erano i più antichi congiunti della casa di José Arcadio Buendía, da prima ancora di intraprendere l'esodo che era culminato con la fondazione di Macondo, ma inoltre i loro figli e nipoti erano i compagni abituali di Aureliano e di Arcadio fin dall'infanzia, e le loro figlie erano le uniche che frequentavano la casa per ricamare con Rebecca e Amaranta. Don Apollinar Moscote, il governante benevolo, le cui funzioni si riducevano a mantenere con le sue scarse risorse due poliziotti armati di bastoni di legno, era un'autorità ornamentale. Per poter sopportare le spese domestiche, le sue figlie aprirono un laboratorio di cucito nel quale si preparavano sia fiori di panno che pasticcini di guayaba e letterine d'amore su ordinazione. Ma nonostante fossero riservate ai servizievoli, le più belle del villaggio e le più abili nei nuovi balli, non riuscirono a farsi prendere in considerazione per la festa. Mentre Ursula e le ragazze sballavano i mobili, lucidavano il vasellame e appendevano quadri di donzelle su barche cariche di rose, infondendo un soffio di nuova vita agli spazi spogli che avevano costruito i muratori, José Arcadio Buendía rinunciò a catturare l'immagine di Dio, convinto della sua inesistenza, e sventrò la pianola per decifrarne la magia segreta. Due giorni prima della festa, impantanato in un rivolo di chiavi e di martelletti che crescevano, acciarpando in un garbuglio di corde che svolgeva da un lato e tornava ad avvolgersi dall'altro, riuscì a mal ricomporre lo strumento. Comunque, la casa si aprì ancora odorosa di resina e di calce umida e i figli e i nipoti dei fondatori conobbero il porticato delle felci e delle begonie, le stanze silenziose, il giardino saturo della fragranza delle rose e si riunirono nella sala delle visite davanti all'invenzione sconosciuta che era stata coperta con un lenzuolo bianco. Coloro che conoscevano il pianoforte popolare in altri villaggi della palude si sentirono un po' smontati. Ma più amara fu la delusione di Ursula quando infilò il primo rullo per permettere ad Amaranta e a Rebecca di aprire le danze e il meccanismo non funzionò. Melchiades, già quasi cieco, sfranto di decrepitezza, fece ricorso alle arti della sua antichissima sapienza per cercare di rimetterlo a posto. Alla fine, José Arcadio Buendía riuscì a muovere per sbaglio un dispositivo inceppato. La musica uscì prima a scatti e poi in una cascata di note ingarbugliate e il ballo si protrasse fino all'alba. Pietro Crespi tornò ad aggiustare la pianola. Rebecca e Amaranta lo aiutarono a mettere in ordine le corde e lo affiancarono nelle risate per l'ingarbugliamento dei valzer. Era estremamente affettuoso ed indole così proba che Ursula rinunciò alla sorveglianza. La vigilia della sua partenza si improvvisò con la pianola restaurata un ballo per dargli l'addio, e l'italiano diede con Rebecca una virtuosa dimostrazione delle danze moderne. Arcadio e Amaranta lo uguagliarono in grazia e destrezza. Ma l'esibizione fu interrotta perché Pilar Ternera, che era rimasta sulla porta coi curiosi, litigò a morsi a strappacapelli con una comare che aveva osato commentare che il giovane Arcadio aveva natiche da donna. Verso mezzanotte Pietro Crespi si accomiatò con un discorsetto sentimentale e promise di tornare molto presto. Rebecca lo accompagnò fino alla porta e, dopo aver chiuso la casa e spento le lampade, andò nella sua stanza a piangere. Fu un pianto inconsolabile che si protrasse per diversi giorni e la cui causa non conobbe neppure Amaranta. Non era strano il suo ermetismo. Anche se sembrava espansiva e cordiale, aveva un carattere solitario e un cuore impenetrabile. Oh, era una splendida adolescente con ossa lunghe e sode, ma si ostinava a voler usare la poltroncina a dondolo di legno con la quale era arrivata in quella casa, più volte rinforzata e ormai priva dei braccioli. Nessuno aveva scoperto che, nonostante la sua età, conservava l'abitudine di succhiarsi il dito. Perciò non perdeva l'occasione di chiudersi nel bagno e aveva preso l'abitudine di dormire con la faccia rivolta contro il muro. Riprese a mangiare terra. La prima volta lo fece quasi per curiosità, certa che il cattivo sapore sarebbe stato il rimedio migliore contro la tentazione. E in effetti non poté sopportare la terra in bocca, ma insistette, vinta dall'ansia crescente, e a poco cominciò a recuperare l'appetito ancestrale, il gusto dei minerali primari, la soddisfazione senza strascichi dell'alimentazione originale. Si metteva manciate di terra nelle tasche e la mangiava a granelli senza essere vista, con un confuso sentimento di felicità e di rabbia. Parlava di altri uomini che non meritavano il sacrificio che si mangiasse per loro i calcinacci dei muri. Un pomeriggio, senza alcun motivo, Amparo Moscote chiese il permesso di vedere la casa. Amaranta e Rebecca, sconcertate dalla visita imprevista, l'accolsero con rigida cerimoniosità. Le mostrarono la dimora modificata, le fecero sentire i rulli della pianola e le offrirono aranciata con biscotti. Amparo diede una lezione di dignità, di fascino personale, di buone maniere, che impressionò Ursula nei brevi attimi durante i quali fu presente alla visita. Dopo 2 ore, quando la conversazione cominciava a languire, Amparo approfittò di una distrazione di Amaranta e consegnò una lettera a Rebecca. Lei riuscì a vedere il nome della distintissima signorina donna Rebecca Buendia, scritto con la stessa calligrafia metodica, con lo stesso inchiostro verde e con lo stesso ordine preziosista delle parole con cui erano scritte le istruzioni per il funzionamento della pianola. E piegò la lettera con la punta delle dita e se la nascose nel seno, guardando Amparo Moscote con un'espressione di gratitudine senza limiti né condizioni, e con una tacita promessa di complicità fino alla morte. L'improvvisa amicizia di Amparo Moscote e di Rebecca Buendia risvegliò le speranze di Aureliano. Il ricordo della piccola Remedios non aveva smesso di torturarlo, ma non trovava l'occasione di vederla. Quando passeggiava per il villaggio con i suoi amici più prossimi, Magnifico Visbal e Gerineldo Marquez, figli dei fondatori con gli stessi nomi, la cercava con sguardo ansioso nel laboratorio di cucito e vedeva soltanto le sorelle maggiori. La presenza di Amparo Moscote nella casa fu come una premonizione. «Deve venire con lei», si diceva Aureliano sottovoce. «Deve venire». Lo ripeté così tante volte, con tanta convinzione, che un pomeriggio, mentre stavo montando il laboratorio, un pesciolino d'oro ebbe la certezza che lei aveva risposto al suo richiamo. Poco dopo, infatti, sentì la vocina infantile e, alzando lo sguardo col cuore gelato di sgomento, vide la bambina sulla soglia, con un vestito di organdì rosa e stivaletti bianchi. «Non entrare lì, Remedios!» disse Amparo Moscote dal portico. «Stanno lavorando!» Ma Aureliano non le lasciò il tempo di ubbidire. Alzò il pesciolino dorato, appesa una catenina che gli usciva dalla bocca, e le disse: «Entra». Remedios si avvicinò e fece qualche domanda sul pesciolino. Ma Aureliano non riuscì a rispondere, perché glielo impediva un'asma improvvisa. Avrebbe voluto restare per sempre vicino a quella pelle di giglio, vicino a quegli occhi di smeraldo, molto vicino a quella voce che a ogni domanda gli dava del Signore, con lo stesso rispetto col quale lo dava a suo padre. Melchiades era nel suo cantuccio, seduto allo scrittoio, e scarabocchiava segni indecifrabili. Aureliano lo odiò. Non poté far nulla, tranne dire a Remedios che le avrebbe regalato il pesciolino. E la bambina si spaventò tanto a quell'offerta che se ne andò in tutta fretta dal laboratorio. E in quel pomeriggio Aureliano perse la recondita pazienza con la quale aveva atteso l'occasione di vederla. Casa si riempì di amore. Aureliano lo espresse in versi senza principio e senza fine. Li scriveva sulle ruvide pergamene che gli regalava Melchiades, sui muri del bagno, sulla pelle delle braccia. E in tutti i versi Remedios appariva trasfigurata. Remedios nell'atmosfera soporifera delle due del pomeriggio. Remedios nella taciturna respirazione delle rose. Remedios nella clessidra segreta dei tarli. Remedios nel vapore del pane all'alba. Remedios dappertutto. E Remedios per sempre. Rebecca aspettava l'amore alle 4 del pomeriggio, ricamando vicino alla finestra. Sapeva che la mula della posta arrivava soltanto ogni 15 giorni. Ma lei l'aspettava sempre, convinta che sarebbe arrivato un giorno qualunque, per sbaglio. Successe tutto il contrario. Una volta la mula non arrivò alla data prevista. Pazza di disperazione, Rebecca si alzò a mezzanotte e mangiò manciate di terra nel giardino con un'avidità suicida, piangendo di dolore e di furia, masticando lombrichi teneri e scheggiandosi i denti su gusci di lumache. Vomitò fino all'alba. Si sprofondò in uno stato di prostrazione febbrile, perse la conoscenza e il suo cuore si aprì in un delirio senza pudore. Ursula, scandalizzata, forzò la serratura del baule e trovò in fondo, legate con nastri color rosa, le 16 lettere profumate e gli scheletri di foglie e di petali conservati in libri antichi e le farfalle disseccate che al toccarle si ridussero in polvere.